sì, tutto a scatti, non rischiare di bruciare tutto, c'è qualcosa che non va all'antenna, sì, di nuovo basso, boh. Natalino, non modulare che bruci tutto. C'è il rumore che c'hai tu. Io? Ah, questo è mio. Aspetta. È quell'alimentatore che ogni tanto ronza. La ventola fatta a manette e ronza. Hai sentito Natalino questa scena? Esce un giorno bene, uno male. Quell'antenna no. Quel cavo, quel PL, non lo so. Adesso bene, ma lo vedi? Ma c'è qualche falso contatto, Natalino. Non so, vabbè, il PL lì, c'è qualche falso contatto. Se uscivi male, poi di nuovo forte di segnale. Vabbè, lì bisogna avere un impianto d'antenna serio, una bella camera bassa o una bella mezz'onda, in modo che sia tutto stilo, almeno non hai radiali che alla fine non servono. Cioè, servono ma possono ingombrare, scappa. E adesso sei 8,5, modulato 9, modulato 9, forse anche qualcosa di più. Va bene, adesso sentiamo 7 quasi. Beh, Claudio, ma c'eravate da molto voi qua, o si è entrato adesso? Io ho appena acceso, sento Natalino chiamare, puoi rispondere tu. Ehi, siamo tornati adesso, mi. Eravamo da McDonald's, mamma mi è voluto andare a McDonald's, siccome io alla festa della donna non avevo accettato di andare da McDonald's, siamo andati oggi, gliel'ho offerto io, capito? Gliel'ho offerto io perché fa il regalino della festa della donna, dai. Abbiamo mangiato, poi non mangiamo panini grandi, spendiamo poco, prendiamo quei panini piccoli, tipo cheeseburger, lei, io il cheeseburger col bacon, patatine fritte e salsa, e basta. Mangiamo proprio poco poco e ti dirò che mi è bastato. Cioè mi sazio con pochissimo, ecco perché poi alle cene faccio brutta figura, capito Claudio? Bene, dopo cambio apparato, metto l'altro 3009 che fermo da un bel po' e lo faccio girare, dai. Andiamo bene anche questo, non c'è problema. Avanti Natalino. No, stai dicendo bene adesso, forse perché è troppo basso di potenza. No, lì c'era qualcosa, c'era qualche falso contatto perché era molto più basso e tutto capito? Non sono perfetti quei contatti, dai. Eia. Bene, bene. Ok, dai. Oh, giornata super, bellissima, cielo azzurro. Io sarei sceso anche a Bratamona, però sta calando il sole. Guarda, se domani è così bella andiamo a Platamona a vedere il mare, a fare una passeggiata, sperando che sia bello. Oggi è proprio azzurro, è un bijou oggi. Anzi, anche tu Claudio mi dovresti uscire di più, ti pigli moglie, te ne vai magari al bar aperto, vi pigliate un gelato, vi pigliate un caffè, vi pigliate quello che volete, ma non sapete stare a casa. Non ho ragione, ah, ho visto che la Juve ha vinto 2-1, ma su rigore il secondo gol, lo sbaglio. Perché su rigore a 95esimo, bella partita, però chi dice che c'era il rigore, chi dice che non c'era, non si capisce niente. Ce n'era uno prima, quasi alla fine del secondo tempo, e non l'ha dato, e poi l'altro l'ha dato proprio a fine partita, polemiche, farrattoi, casino, poi il gol del Milan era fuori gioco, capito, proprio si vedeva che era fuori gioco. È una bella partita, però si è un po' sporcata, però il risultato è quello, pazienza. Ascolta, prima del rigore, cioè prima di segnare il 2, come erano messi? 1-1? Sì, 1-1, però c'era un altro rigore per la Juventus e non gliel'ha dato. Capito? Non gliel'ha dato, ha dato la regola di vantaggio che non si dà. Assolutamente. Non c'è il rigore, si ferma il gioco e si dà il rigore. E non c'era la regola di vantaggio. Poi è capitato questo rigore praticamente a partita finita perché era il tempi di recupero, capito? E ho vinto 2-1, se no era 1-1, ci poteva stare anche l'1-1 comunque. E vabbè, con un colpo di culo sono riuscito a segnare con i gol, 2-1, quello che conta è il risultato, come si suol dire. Bene, bene, Natalino, e tu perché non te ne esci con tuo motere, te ne fai in un locale, te ne fai a vedere il mare? Una cosa, Natalino, ti volevo chiedere, ma tu peschi o non peschi? C'è l'hobby della pesca, ti piace? Ah, anche a te. E mi sa che mi rinnovo quel permessino di pesca, me lo stampo, e così quest'estate... Anche a primavera mi diverto un po', dai. Magari di giorno un po' anche, non di notte c'è troppo freddo, di giorno così al calo del sole, finché non c'è gente si può fare. E via, tanto è sempre gratuito il permesso. Lo volevano tassare, ma c'è stata una mezza rivolta e per adesso hanno preferito non tassarla la pesca in mare. E tanto loro decidono sempre alla faccia nostra. Sapete perché? Perché prima, sai perché hanno dato il permesso gratuito? Era per vedere quante persone erano pescatori, quanti pescatori c'erano, sia a canna che sub, no, vale per tutto. E dice, se sono molti conviene tassare, così ci guadagniamo. Invece poi c'era stato proteste, per adesso non l'hanno tassato, però secondo me prima o poi lo tasseranno, dai. E vabbè, tanto sarà una cosa simbolica, non è come la pesca al lago, no? Avevo fatto il libretto, Claudio, per la pesca al lago, sono andato una volta al... davvero? Arcoghina sarà andato, avrò fatto 80 km per niente, non ho pescato una mazza. Ero andato a cucchiaino io, non col mais, perché mi ricordo che quando ero piccolo io, piccolo proprio, mamma era andata con i suoi amici lì al Covina, ed era ogni 3 tiri, almeno un tiro, la trotta, su 3 tiri una trotta, su 3 tiri una trotta, e si, invece col cucchiaino niente, proprio morto il Covina, morto. Vabbè, non è detto che devi sempre pescare. Ma con Natalino andavamo, io e Natalino c'è anni, sì, siamo sempre andati, poi avremmo mollato. Ehi, perché magari Gianni ha degli orari, lui va di notte, se ne torna anche le 2, 2:30, 3 di notte. Devo dire che c'è molta umidità, quello che mi secca è l'umidità, se fosse un clima più secco, il fresco, il freddo non mi darebbe fastidio, ma quando è un freddo umido ti entra proprio nelle ossa, anche se ti metti già che giubbotti, lo senti sempre. Quindi ognuno magari ha i suoi orari, io preferirei andare di giorno, di sera così, di pomeriggio, all'imbrunire anche, però... Quando fa buio mi innando. Guarda, c'ho di tutto, c'ho la lampada da fronte, c'ho la lampada a gas, c'ho tutto, c'ho canne, non le uso da anni, da 10 anni almeno che non le uso, le canne da pesca, ne ho più di una, però mi era passata proprio la gas. E il mio metodo di pescare comunque era sbagliato, perché avevo visto di mettere ami che a me sembravano giusti, invece erano piccoli. Gianni mette ami enormi, ami veramente grossi, e il trucco è quello, se metti ami piccoli se lo mangiano i pesciolini, lui metteva ami grossi e verme intero, cioè il verme americano intero, allora sì che si attacca all'oratta, capito? Belle oratte poi, a me i pesciolini non riescono a mangiarselo, attaccarsi con l'amo grosso, capito? A me si attaccavano le acciughe, si attaccavano pesciolini piccoli, capito? E l'errore mio è stato quello, usare ami piccoli, che a me sembravano medi, un amo giusto, invece no, sono piccoli miei. Ehi, vabbè, bisogna saper pescare, però Gianni è bravo, anche Natalino, io non è che ero molto pratico, però mi divertivo lo stesso, Ok, avanti Natale. Magari sta parlando in verticale. Sì, sì, l'errore mio era anche che da un verme americano ne facevo 4-5 pezzi, capito? Lui lo usa intero, con amo bello, bello teccio. È chiaro che lì abbocca solo roba grossa. Ed è giusto che sia così, quindi quando mi metterò a posto l'attrezzatura, sai, perché il filo è vecchio, il filo del mulinello è fragico, devo cambiare filo, mettere un buon filo, una buona lenza, quelle super resistenti che hanno da ali punti, come si chiama? Jolly, quelle che ho lì punti, ha sempre roba buona e marche buone. Cosa? Io sto entrando adesso, non lo so. L'ho letta io, ripeti, ma non mi ricordo, sono smemorato. E allora aspetta, perché tu forse non sei sportivo, adesso ti mando una cosa che ho fatto un abbonamento speciale, proprio, capito? Te lo mando in diretta, a vedere se Bacca era fuori gioco quando hanno mandato la linea di partenza di Bacca. E poi guarda dove è il piede suo e dove è il piede di Benatia. Stai attento, però te la mando, perché cazzo, bisogna essere sportivi nel gioco, capito? Non solo guardare una cosa. Era fuori gioco netto, e l'ha detto anche Mediaset Premio, capito? Che in quell'occasione va bene, ha lasciato perdere l'arbitro visto che era un pelino in fuorigioco e gli ha convalidato il gol. Quando invece cazzo dati un rigore a Juventus non fa mai, capito? Senza dire che c'era anche l'altro gol di Zapata su Dybala, l'altro rigore di Zapata su Dybala. Comunque a me non me l'ha fottenuta, non mi è entrata in busciacca, però ripeto, io sono sportivo. No, Massimiliano, non era mezzo centimetro, c'era tutta la scarpa fuori, capito? Perché è stato detto, ricontrollato, rivisto, guarda, te lo sto mandando, c'era tutto il piede fuori e l'arbitro l'ha lasciato perdere, perché sai, sei ultimo uomo, va bene tutto, però non capisco quando in certe circostanze la Juve prende il rigore al 95esimo, cazzo, tutti di brutta, e la mano c'era, il rigore c'era, poi sta lì all'arbitro, lascia perdere perché la partita è finita, o fare tirare il rigore, tutto lì, siccome comanda lui in campo, non ti diciamo politica, perché devo dire che non me lo sarei mai aspettato, l'intervista di Montella, un grande signore, ma veramente un grande signore, io non lo posso vedere, però è stato veramente un grande signore, ok, perché si gioca e si vince, ha detto sino a quando l'arbitro non fischia, perciò io non devo criticare niente, è lui che comanda il campo, è lui che ha dato rigore, se per lui era da fare va bene così, però una grandissima partita, perché è stata una bella partita, quello che è successo dopo, perché quello che ha detto Donnarumma nei confronti della Juve è quello da vedere cosa decide il giudice sportivo, quello che ha detto Bacca nei confronti dell'arbitro è da vedere cosa decide il giudice sportivo. Sono convinto che del Milan ci sono 3 o 4 giocatori che la prossima partita non giocano, tu vedrai, perché non ci si comporta così. No, Massimiliano, c'è una regola che forse tu non capisci. Dal momento in cui c'è stata l'espulsione di Suso, mi pare che ha espulso, il regolamento calcistico dice che si possono recuperare altre 30 secondi. Ok, altre 30 secondi. Quindi nel momento in cui c'è stata l'espulsione e l'arbitro non ha fischiato al 94esimo, ma bensì ha lasciato correre proprio quell'azione, in quel contesto lì, erano maturati 30 secondi dell'azione, praticamente era tutto regolare. Perché dal momento in cui ha preso la palla con la mano era ancora regolare il gioco, perché c'erano 30 secondi in più per l'espulsione di quando si è fermato il gioco, per l'espulsione di non ricordo se è Suso che è uscito, certo era Bonosso, comunque era regolare, tutto rispetto, stava a lui se in quel lancio lì, in quel tocco di palla, fischiare la fine della partita, non dare rigore oppure dare rigore, siccome si può fare, perché il regolamento lo dice che si può fare, l'hanno detto anche ieri lì nella direzione degli arbitri, quindi comunque a me non me la fu tenuta, te ripeto, e Juve ha meritato di vincere alla grande, ma non poco alla grande, perché il Milan ha fatto un tiro in porta e un contropiede, tant'è vero che Buffon si stava scaldando, giocherellando a chi non ha fatto nulla, capito? Era legittima la partita, l'ha fatta Donnarumma, non l'ha fatto il Milan. Tutto lì, questo è il mio parere da sportivo e non da Juventino, da sportivo. Poi certo, ognuno può dire quello che vuole. Affarrettivi. Tu partita non hai visto, io guardo i numeri, Massimiliano, 59% di possesso palla, 62% di tiri in porta contro il 30% e il 25% di possesso palla, questi sono i numeri della partita, Massimiliano, capito? Io ho una 7 primi, me l'ha già baitata, ma baitata beh puro, capito? E me l'ho rivista anche oggi perché la notte anche oggi l'ho ripreso, perciò cosa ha fatto il Milan? Ha fatto una discesa che gliel'ha presa con i piedi di Buffon, poi col contropiede, poi e tutti i tiri in porta che ha fatto la Juventus, eh? Tutte quelle palle gol di Higuain, di Dybala, di tutti, al di là di tutti in porta, tutti. Cosa ne ha bugato? A 5 minuti alla fine cosa ne ha tolto? Quello di Chedira che era dentro l'ha salvato nella linea, cosa ne ha tolto? Ha bugato tutto, visto Donnarumma, tutto una bugata. Comunque ti ripeto, si vince anche così, va bene, adesso noi dobbiamo pensare alla Champions, il campionato è già andato oramai. Cosa pensi che riescano a recuperare 11 punti? Siete voi che dovrete cercare di vincere per poter entrare almeno in Europa League, perché in Champions oramai non ci siete più, assolutamente. Però in Europa League potete entrare, quindi datevi da fare. Squadra di puffi. Hai visto che fa dopo Lugagliani? Chi si fuoce, un vicio che aspetta e dai. Ma ci vediamo Donnarumma con quello che è successo ieri, scusa Marco, poi chiudo, non ci va la Juve. Perché ha sollevato la mano, si è baciato la maglietta con lo stemma del Milan, è stato nei confronti della Juventus sapendo che c'è un ingaggio per lui con la Juventus, che la Juventus non è il Milan, sappilo, capito? Il Milan era, e te lo dico con molta sincerità perché a casa mia sono tutti milanisti, io sono l'unico juventino, quindi te lo dico con molta sincerità, il Milan era Milan quando l'unico che comandava era Berlusconi. Adesso in mano a queste aghici sciacalli, per me non è più Milan come la stessa cosa dell'Inter. I milanesi non sono più squadre da poter prendere in considerazione per conto mio. Quindi non parliamo di società, lasciamo perdere, la Juve è un'altra gruppa, è un'altra gruppa. Società italiana, vissuta la capitale italiana, è comandata da gente italiana, da miliardari italiani, no, cazzo, da cinesi, da giapponesi, da marocchini, ma stiamo scherzando. Comunque Donnarumma non ci viene più alla Juventus. Dopo quello che è successo, tu adesso vedrai, leggerai i giornali, le toglieranno anche l'ingaggio, perché Buffon deve andare via, Buffon fa questo campionato e poi ha finito, l'ha già dichiarato e se ne tira, la sua carriera è finita, ma c'è Netto come secondo portiere e poi ne prenderanno un altro, ma Donnarumma non ci va alla Juve, tranquillo per quello che è successo ieri, per quello che ha detto ieri, non ci va alla Juve. Da mettere la Juventus, cioè 10 miliardi, un giocatore del genere, un portiere del genere, con le critiche che ha fatto, ma ne ha detto tutti i colori, a tutti, alla Juve, alla dirigenza, a tutti, vicino ai 18 anni, che ha avuto un calcio in culo, vai, lo prendi male. Io non ti ho ancora salutato Massimiliano. Ho cambiato baracchino, ho messo l'altro 3009, quello non omologato, che ha il trimmer della modulazione aperto, vedo i picchi molti più picchi di modulazione, dai, il microfono è sempre a 7. Ok, ciao Massimiliano, riprendi. Io naturalmente non sono sportivo, però quando ci sono le partite almeno in chiaro un po' le guardo così. Purtroppo prima c'era un intrallazzo che facevo per vederle, poi si sono rovinati quegli aggeggi che avevo io e niente da fare. Ok, Natalino, ci sei, tu sei sportivo? Natalino è sparito, come l'abbiamo lasciato in bianco è sparito. Sì, bene, bene. Come mi senti a me? Super SAR 3009 più MB più 5. Ascolta, ma l'8001 è quello che ho omologato? Ma omologato tu che se ti ricordi anche allora 87 omologato, no? Perché appunto lo stanza non se lo ricordavo. Allora io mi ricordo perché ce l'ho avuto. Ce l'ho avuto la 87 io. Ed era omologato, era omologato. Vabbè. Lo so, però lui no. Vabbè, io c'era questo problema della macchina. Sto cercandolo un po' più piccolo. Vediamo si riesce a trovarlo. Va bene, va bene. Niente. Abbiamo scendo dal luogo. E chi sta? Ah, beh, andiamo, ti chiama. La macchina. Ahi, a go. Go, bene va, sto a posto. 15 litri quanto sono? 20 euro. Ehi, ehi. Ehi, vabbè. No, io con 10 euro ci vado, vado a Sorso, con 600, lunedì, martedì, mercoledì, tre giorni, sono 2, 4, 6, 6 volte, andate ritorno, andate ritorno, con 10 euro, conta che sono 20, 20 chilometri, 80 chilometri di euro, sono tre cilindri, e come era la Smart, ti ho detto. Va bene, sì, va bene, tre giorni, 10 euro, per sconsigliare 10 euro sono 7 litri di roba, tanto è. Non so, però va bene. Ma vediamo se ci saranno i mezzi a destinazione, se no, vabbè, io adesso inizio ad andare in moto a lavoro. Come rientro, inizio ad andare in moto. Faccio prima e poi risparmio anche lì. Avanti Marco. Eia. Poi con le giornate così, guarda, viene voglia di uscire molto proprio con lo scooter. Vabbè. Ok. Natalino, ci sei? Sei rientrato? Hai visto il piede di Bacca? Capo e Bonier. Hai visto il piede di Bacca? No, è così. Quello è così, è così. È. Se voleva li bloccava l'azione tranquillamente. Invece il guardialine era troppo indietro e non si è accorto, quindi l'azione è andata avanti. Va bene lo stesso. Ti ripeto, anche per me in Parigi andava bene, guarda, io stavo già cambiando perché ho visto il 94esimo quasi finito. Vabbè, al 93esimo qualcosa hanno espulso a se mi ricordo che è uscito del Milan, quindi si è fermata l'azione, è stato battuto e finito lo Giambendi, ho visto questo cross dell'Ixteiner e l'arbitro che ha indicato il dischetto di gol, per me la partita era finita. Oh. Pazienza, è andata così, cazzo, non credete, non è buona vita, non è buona vita perché non per il rigore, no? Perché lì non c'era bisogno di stare attaccati all'Ixteiner quando ha lanciato, tanto quel lancio era fuori misura, no? non c'era possibilità di segnare, assolutamente, possibilità di segnare c'era quella girata di Higuaín al volo, sarebbe stato un gol eccezionale come quello che aveva fatto la Fiorentina appena entrato, la prima battita con la Fiorentina, gloria che aveva fatto. Vabbè, ma Natalino non lo senti tu perché c'è un'antenna interna, ma sì. No, non risponde. Forse si è allontanato. Cosa volevo dire Claudio? Perché Valerio, che problema ha sulla macchina? Lui c'ha un baracchino di quelli piccoli, capito? Per farti capire, tipo la 48 come misura, ce l'ha in un posto obbligato dove c'ha tutta la sede, l'impianto, eccetera. per poter montare uno di quelli come c'è Massimiliano, ci sta, non le scopresi dire, tocca il PL, insomma, così non bisogna per rifare tutto nuovo, però lui c'ha quello spazio lì e non vuole fare altre cose, e quindi sta cercando un baracchino, però che sia accolto, che sia modificato, nella misura più o meno di una 48, dai. Ah, così è, vabbè, ma questa macchina, possibile che sento molta gente che cerca sempre baracchini minuscoli perché in macchina dicono che non hanno posto. E caspita, o sono macchine con un'abitabilità proprio ridotta. Io ho la Agila, ma grazie a Dio posso mettere il 3009 tranquillamente. E lo metto a destra, no? Davanti al passeggero, sotto il cassettino aperto, con quelle viti passanti e il galletto per chiudere. Quello è il mio sistema. Ma grazie a Dio il passeggero si sta comodo lo stesso. E sento spesso gente che si lamenta che non ha posto per un baracchino, deve mettere i micro baracchini, boh. Saranno quelle macchinette moderne di adesso che non ci sta nulla. No, Marco, mi sono visto. Ah, cioè, magari non lo vogliono mettere dove sarebbe. Io ho forattoli. È sotto il cassettino aperto dove metti le cose così. Ho foratto col trapano. Ho bucato la plastica, due strati. Messo delle viti che io, sai, metto a levo il baracchino. Delle viti con rondelle sopra e sotto. E dei galletti, proprio il galletto per avvitarmi. Per esempio, se lo voglio togliere, svito i galletti, sfilo e me lo porto via. E grazie a Dio ci ho messo di tutto su quella macchina. Però c'è da dire che la mia è più spaziosa di certe macchine di adesso, che sono tutte gonfie, proprio ci passano a malapena le gambe, capito? Per esempio, nella tua, la Ego, c'è abbastanza posto per mettere tipo il 3009, quello che hai detto tu, il 7001, com'è? Mi stai confondendo, Maria non c'ha, Maria c'ha un antennone più grande della PDC1000, ce l'ha centro tetto, un lavoro eccezionale, perché ho visto io, no lavoretto così, un lavoro eccezionale, con piastra e sotto piastra, e tessera, il movettone di quell'antenna è pesantissimo, è un bel grande, è un bel grosso, capito? Un bel lavoro, e c'ha una della Citra, capito? E poi i cassettini, lui non è bucato, con Marco, i cassettini, bullone passante, no? Si tiene la macchina, ognuno la pensa come vuole, come c'è. Io ti posso sfondare anche il cruscotto di una macchina vecchia, quando c'è una macchina nuova, no, non fa a fare queste cose, capito? Lui c'è a fianco perché viene meglio così, e poi è in una posizione che non dà fastidio, un baracchino così. Un baracchino grande le crea problemi sia per il passeggero, non piega il sedile, eccetera. E avanti nella console non le può mettere, assolutamente, capito? Assolutamente, non c'è il posto per mettere un baracchino, e quindi l'ha messo a fianco. Capito, Marco? Perciò sta cercando uno come misura uguale a quello, dai. Eia, con doppio modulatore, così è. Eia. Vabbè, sì, poi sai cos'è, la mia, quella di mamma è vecchia anche come macchina. Però devo dire che i fori che ho fatto sotto il cassettino aperto non si vede nulla, per come è inclinato non vedi nemmeno nulla. Nulla, anche quando il cassettino è vuoto non ne vedi fuori, capito? E c'è un'inclinazione particolare, infatti è perfetto. Lì ci ho messo di tutto, tutti quelli grossi, i baracchini, l'857, poi quello è piccolo, ancora più piccolo. con Howard Kenwood c'era uno che vendeva le staffe per auto per il Kenwood, poco ci è mancato che le comprasse, lo sai, volevo mettere il Kenwood attaccato lì per ascoltare, solo per ascoltare però, e non per trasmettere, solo che sarebbe stata, manco per chi te lo vede, ma ok. Chi altro vuole entrare qua, avanti? Che picchi di moderazione c'ha, ma troppo forte la radio. Ma che vuole di Wiccia? Non esistene. E vai, fatti un coscio, Valerio. Ma te che sei venuto qua a casa? Valerio c'ha la macchina nera, è nera quella, Valerio. Questa è la macchina, Valerio. Io quando è venuto qua è venuto sempre con una macchina nera, l'antenna a centrotetto, di quelle antenne a mattoni rotti che... Magari è due macchine. Non lo so, io questa non la conosco come macchina valigia, ma io non è c'ha la macchina station wagon, non è una marea, cos'è, che macchina è questa? Ma io c'ho una macchina nera della Citroen, mi sembra, non so se è C2, C1, conosco. Valerio. Ma state parlando dello stesso Valerio? No, non so che stiamo parlando dello stesso Valerio. Io sto parlando di Valerio di Alghero. Non è la sua, cosa vuoi che dica? Questa sarà un'altra macchina, non lo so. Io lo conosco da tanto, mio Massimiliano. Io lo conosco con una C1 o C2, adesso forse C2, nera, nuova, hai capito? E c'è l'antenna a centro tetto, antenna a centro tetto, C2 nera, questa non deve essere la sua, non lo so di chi è, cosa ne so, ha scritto qualcosa, lo trova bene, conosco da un bel tempo, io Valerio, non lo conosco adesso, c'è una C2, adesso non so se C1 o C2, nera con l'antenna a centro tetto, un bellissimo lavoro, c'è la piastra sotto, mi ha spiegato come l'ha fatto e tutto, bellissimo, è un riratissimo, il baracchino in una posizione che è bella, non dà fastidio a niente, perché è un baracchino piccolo, capito? Non ne mette lui lì davanti a bucare e a fare, Marco. Ehi Massimiliano, ma non immaginate che sei confuso. Pensi che sia lui che l'abbia mandata, ma no, non è la sua quella macchina. Assolutamente, lui c'ha una macchina nera, con un bellissimo lavoro, fatto veramente molto molto bene. Mi ha spiegato anche come l'ha fatto. Poi tolta la cappotta, c'è la piastra sotto di ferro, perché c'è un'antenna enorme, c'è ogni mozzo allucinante. Sirio Performer 5000, credo sia quella, è la più grossa, c'è uno stilo impressionante, una bobina impressionante, che sia quella? Non lo so, se dovesse entrare glielo chiediamo, non lo so, comunque c'è una bella antenna, perché l'altro giorno era capocaccia, c'è anche di mia le macchine, e la capocaccia arrivava 9 abbondante qua. Allora, finito. Eia, è elegante come antenna, molto bella a vedersi, mentre la turbo sembra più rozza, più spartana. Questa Performer 5000 era il mio sogno, solo che non ho voglia di bucare, di far mettere piastre, mi accontento di quella che ho io, dai. Che c'ha la bobina nera, Massimiliano, grossa, quella lì. E allora è quella lì, ci resta, va grigia, allora deve essere quella. E allora deve essere quella lì. No, c'è un bel impianto in macchina, di antenna e poi un baracchino normale, con il microfono normale, cresce molto bene. E c'è il lineare in macchina, capito Marco? C'è il lineare in macchina. Però il posto l'ho visto io, non davanti, cose così, cassettino, eh. La Citroen fa sempre un tipo di console particolare, capito? Quindi non c'è questo fianchetto, poi ci sta anche bene, ordinato, però non deve essere molto grande, c'è una scorreserina. Tutto lì, se no si avrebbe preso tranquillamente, ogni voglia di stare a cambiare a fare, capito? Ehi, ho già compreso, dai. Certo che mamma mia, in macchina. In macchina senza bande laterali, come faccio? Io come farei? Guarda, se lui vuole un baracchinetto piccolo, ma completo, gli consiglio il CRT 9009. È piccolo come il 48 di frontale, è leggermente più lungo, c'ha tutto. MFM, bande laterali, ecco, autoascolto, 60 watt in banda laterale c'ha. Un bel baracchinetto. Chi vuole roba compatta, però è un po' lunghetto dietro, e non lo so. E cos'è il minimo? 2000 euro. 2000 euro. Ma come raggiungo io 2000 euro? Sono contento che stai facendo la brava. sveglia, sì, o crano, non meglio forse cosa li vuoi fare, più di così lo vuoi fare uscire, col turbo, come si chiama, Top Gun Modulator, esce abbastanza forte, perché poi se lo esasperi non va bene, ci riscalda, capito? Ciao Tornaro, ciao, buona serata, baci e abbracci. Vediamo di avere le comprate. Mica c'è Natalino, mica. Vedi, ma scendi. Va bene, va bene. Avanti Tatalino, senti un ronzio, ma è ricezione. Ciao, lo credo, con l'antenna attaccata al frigo. E non credo che la senti ronzì. C'era il rumore del motore del frigorifero, Natalino. Prova un altro posto, ma almeno io guarda, c'ho l'antenna VHF nuova banda nella finestra con una piastra in ferro, e c'è la base magnetica appoggiata sulla piastra in ferro. Ricevo Alghero, chiaro che non ci modulo, ma come ricezione è favolosa, perché sicuramente non ho provato le stazionarie e qualcosa ce l'ha, ma non ci modulo perché non mi interessa accendere l'antenna, è giusto per tenere in funzione, in ascolto, una radio che c'ho in più, capito? Se tu quella lì la prendi, ti allunghi il cavo, anche con un barilotto, fatto bene, e la metti fuori nella finestra con una piastra, sono convinto che esci molto, molto meglio, non intendesi? Ciao Massimiliano, dai, se coincide ci sentiamo più tardi. Se no a domani, gappa. Vai Marco. Eia, ciao Massimiliano, sentiamo più tardi, dai. Natalino, riprendi. Oh, Natalino, vai, vieni. E c'è lo zio, c'ha l'antenna interna, c'ha il computer attaccato al baracchino. Immagina lo switching del computer pure. Ci vuole l'antenna esterna, e comunque anche con l'antenna esterna io ogni tanto sento ronzii di chi usa il phone, di chi usa, che ne so, l'aspirapolvere. Era già lo credo. Che cosa vuoi dire? Se lo spazio è quello, come mi stava dicendo, non so cosa dirti, però io lì l'antenna da dentro l'avrei tolta con la base magnetica. Messa nell'avanzare della finestra con una piastra in ferro, come c'ho io, e sono convinto al 100% che esce molto molto meglio, non le crea problemi di RF al baracchino, ed esce, sicuramente c'è meglio per me. Io ce l'ho nella finestra, ma così, l'antenna, avevo un'antenna monobanda per le V, e c'ho una radio in più, perché una l'avevo presa, ho preso il 790, nella chiudo, però c'avevo anche il 780, e per non tenere lo spettro il 780 lo metto. Tu immaginati che ricevo tutto, capito? Ricevo tutto dalla finestra con questa antennina piccolina, non è piccola, è una 5 ottavi, però ricevo tutto, se la metto dentro non ricevo niente, quindi... Veglia, stavate dicendo che sul 45 non c'è più movimento, vabbè, siamo ancora in inverno, anche se ogni tanto ci sono giornate buone. Voi vedrete in primavera e in estate la propagazione sul 45, vedrete come migliora e cominceranno a entrare tutti. Lo so, ma io ci vado così quando c'è Massimiliano, Gigi, insomma, quelli che conosco a salutare, ma non ci modulo perché non c'ho il baracchino adatto e non so, così. Però già entro a salutare. Capito, vieni. Vabbè. Quindi Natalino, se vuoi un consiglio fallo, perché secondo me vai molto meglio, ma non... Secondo me va meglio, guarda, tranquillo, se tu lì le metti una piastra in ferro, appoggi la base magnetica sull'avanzare la finestra, per me arrivi molto meglio, visto che stai arrivando a Santiago 6, da dentro a casa, voglio vedere se mettendo là fuori l'antenna no, non visiona meglio. Aspetta, non ce l'ha la finestra, tu che ci sei andato, io non so mai quello che avete. Non ce l'ha nella finestra lì, anche se è piano terra, non ce l'ha la finestra. Sì, ce l'ha, mi pare, non ci ho badato, non mi sono affacciato però, capito? Non ho visto come la finestra, come è conformata, però non riprende Natalino. Riprende e non riprende. E quindi gira, ci andiamo noi, chiediamo una scala. Vabbè. Una mezz'onda, una canna pesca ci va bene lì, però non lo so, la resistenza della canna pesca non lo so. Boh. Io avrei preferito alluminio, io la mia la ce l'ho d'alluminio, ha resistito al vento e tutto. Boh. Poi vabbè. Sono prevenuto, insomma a me piacciono le antenne d'alluminio, nemmeno in vetroresina, non mi piace in vetroresina, mi piace l'alluminio. Io ti ripeto, per come vedo la situazione, lì l'antenna va sopra il frigo, la presto. E viste quelle antenne piccoline che c'è una finestra, io non c'è, una grande e una piccola. Una non manda e l'altra vi manda. Ce l'ho lì, su una piastra di ferro, bella grossa, e ti dico che funziona. Sento produttore, sento Alghero, sento tutto. Certo, quindi di però meglio di come sta uscendo adesso, secondo me esce, se la mette nella finestra. Eia. Natalino sta usando attualmente uno di quegli alimentatori, quelli per computer, che saranno stabilizzati, ma non lo so se sono schermati per la radiofrequenza, non lo so. Io ho preferito sempre usare alimentatori per apparati radio, sia lamelle sia switching, non quelli là, si costano poco, però boh, non lo so. Cioè la massa praticamente la fa il frigorifero. No, io sto parlando di alimentatore, l'alimentatore sto usando quelli per computer, capito? Quelli con i fili volanti, cioè che devi. Sì, invece l'antenna fa la massa sul frigo, la base magnetica è attaccata al frigo. Rispetto per me quell'antenna, visto che funziona bene, io l'avevo messa fuori dalla finestra momentaneamente. Bisogna venire a Mugani, ma capite? L'avevo messa alla finestra e vedi che sarebbe andato alla grande, molto meglio di come sta uscendo adesso. Se funziona, però è chiaro che c'ha dietro di RF, il funzionamento non è regolare al 100%. Io avrei paura a usare un'antenna dentro casa, perché proprio nella stessa stanza, perché c'è dei rientri di RF pericolosi anche. Poi per non parlare di rumorini, poi ormai è tutto fa rumore. Gli alimentatori switching, che siano del portatile, che siano di qualsiasi elettrodomestico, sono switching, anche quelli cellulari. Poi queste luci a LED, queste luci che metti ai lampadari, ormai sono, certe sono, vabbè, quelle a neon, però certe sono a LED, sono rumorosissime, l'hanno detto tutti. 30 anni fa non esistevano queste luci a LED, questi switching, e perciò era più silenzioso anche il baracchino. No, io non ne ho LED, su tutte le lampadine a basso consumo, però adesso le ho trovate a basso consumo anche per i lampadari del salone, che tra l'altro sono in vetro murano, sono quelli a attacco piccolo, a siluro diciamo, capito? Non è per mettere lampadine così, le lampadine che ci vogliono sono quelle sue. Prima erano normali, adesso li ho messi a basso consumo, li ho trovati alla Eco, che costano tra l'altro 3,50 l'una a me. Fanno lo sconto, cioè ci lavorano anche i cognati di mio fratello, ma a prescindere noi sono fornitori della mia azienda, diciamo che per costavano 4,50 l'una. Quindi sì, fate un conto. Vabbè. Che pagato. Vediamo un po' se è per Natalino. Natalino. Ehi, no, a meno che non abbia bruciato tutto Gianni. Ascolta, ma il telefono ce l'hai vicino, te lo posso mandare un audio? Certo, mi ce l'ho qua. Ho fatto l'abbonamento a internet, mensile, tutto funziona bene. Manda, manda tutto. Non ho un audio, ti voglio mandare. Eia. Oh, io, oh, yes. Sabato magari entra poca gente, anche perché magari vanno a fare la spesa con le mogli, non lo so. Vedremo chi entrerà, dai. Aspetti, mando l'audio, zitto. Ora quando ti arriva, ascolta, rispondi e dimmi se sei d'accordo. Hai compreso? No, aspetta, con le notte sei a posto. Arriva, arriva. Te lo dico io come fare lo spinotto, come fare il barilotto. Ma ti hai fatto il messaggio, mi hai risposto? Sì, sì, adesso ti arriva, mi? Eccolo, sta arrivando, sta arrivando. Oh, yeah. Aspetta che c'ho l'altro messaggio tuo, quello che ne ho mandato un altro io. Ah, che bello. Abbandoniamo la 27, ce ne stiamo. Di WhatsApp. Assolutamente no, Marco. Assolutamente no, capito. Il messaggio che mi hai mandato. No, no. Assolutamente no. Perché a me quando mi hanno proposto una cosa del genere io mi ha dato a fanculo tutti, quindi no. Non me lo piace, non ho mai capito cosa sto dicendo. Perciò non lo condivido con le cose lì. Veramente da schifo. Un attimino che sto ascoltando. Oh, non mi manda il messaggio, aspetta che è in pausa. Sì, io sono qua, non preoccupare. Aspetta che nel frattempo devo mangiare a Filippo. Fai pure, dai. Eccomi, Marco, sono qua. Marco, a mangiare sei andato, Marco? No, negativo, stavo parlando con mamma. E beh, questo bloccato si è, non manda il messaggio. Dovevo premere qua, aspetta che si è sbloccato, forse. Vabbè, se arriva bene, se hanno pazienza. Niente di che comunque. Dicevo che arrivano fin troppo forte da là, lo sai. Io dico che un apparecchio da 500 milliwatt da laggiù non arriva a Sassari, quindi anche loro sono in difetto, se capì? Sì, vabbè, difetto no, comunque qui diciamo sempre qualche loro a parte il mano. Vabbè, là, chiuso il discorso, ne parliamo magari di persona, là. Non c'è mai capito che ti stavo dicendo. No, vedo sentiti io da poco. Lamentarsi. Vado. Va bene, aspetta, leggo il messaggio. E quello già me lo ricordo, Marco. A voi già me lo ricordo. Però era un altro tipo di movimento che si faceva, Anche io, sì. Però un altro tipo di movimento. Vabbè, comunque, ce ne parliamo quando... Quando siamo tutti assieme, magari, dai. Vabbè, ma per me fa bene, si diceva a me già così. Ma fa bene davvero. Non manco di rapini. Vabbè, d'accordo. Vediamo Natalino se magari ha pensato di mettere l'antenna fuori. Natalino. No, so che lui sparisce repentinamente. E non so il perché. Ogni tanto forse fa roba in casa, insomma. Come Pomponio mi va e viene. E Pomponio con quel casino che c'ha, speriamo che ne tolga piedi, se no le manicomi. Sì. Oi, oi, oi. Natalino, rispondi. Rispondi. Sugar, ma che caro c'è in 20 metri? Il Vaticano. Ui, ui, ui. Ma 14. Se soffiare non fai una minchia allucinante. Mi già fatto che tu burrito. Mi fugasta via, il nuovo amante veloce. Sai, salutami, digli di salutarmi il pontefice. Che devo saltare il ponte, quello che è crollato. Ah, che c'è morto uno sotto. Ho visto, bobo. Per carità, l'italietta degli italiotti proprio. Se non è giusto, l'italietta degli italiotti. Comunque, sono andato a parlare con mamma, ho visto che erano le 6:20 già. Io credo fossero 5:20. Ho detto, è presto, non entra nessuno perché c'è solo le 6:20. Forse il sabato viene usato per fare spese, per andare fuori con le mogli, boh. Magari entra poca gente per quello. Ah, boh. No, io se voglio esco, non ne ho problemi. La macchina ce l'ho, anche se mia figlia c'ha l'altra, ma io ce l'ho piccola. Dove andare? Me vado a Ghero. Fare che cosa? Mi tra un po' il buio. Lo fai. Andiamo a la pista, porra. Ora vado alla pista, mangiata ieri, no, mio frutta. Non ne va, profitta. Ancora c'è freddo, uscire a passeggiare, a fare, anche se vado a Portogia, a farmi un giro, a... capito? Mio frutta, questa è una malattia, io qui. Devo uscire dopo le 7, per prepararmi tutto, esco alle 8, allora ci va. Lui, no, puoi cercarmi, no. Se per me devo portare il cane prima, già faccio. Tu, quando c'è l'aria a casa, allora usciamo. Non proprio. Poi sinceramente Marco, io voglio stare in giro. Mi sto così riposando, rilassando, guarda. Faccio un po' di cose a casa, un po' di pulizie che mia moglie non riesce a fare, ho fatto tutti lavare, tutti gli armadi, ho smontato tutto, ho aspirato dietro, sotto, da tutte le parti, capito? Pulizie che lei non riesce a fare, anche se, ti ripeto, ogni 15 giorni viene una ragazza aiutata, però ci sono io adesso e quindi le sto facendo io queste cose. Poi mi ho sistemato tutta la stanza, ho pulito tutte le finestre, i cassoni delle ogive, sono fatto tutte queste cose, mi ho sistemato su che c'era un casino. E quindi sto facendo, già mi sto, adesso poi intanto lunedì mi scrive la malattia, martedì mattina devo andare alla vista di controllo, vediamo se mi fanno rientrare, ma riesco a lavoro, se non mi fanno rientrare, che te devo dire? Nel modo più assolutamente è qualcosa a casa, giusto per ammazzare il tempo. Ti ripeto, spero mi facciano rientrare, se no ciccia, lo devo fare. Purtroppo non comando io, comandano i medici. Se secondo loro non va bene, continuo a rimanere a casa. Questo è il quanto. Ciao Sandro, buonasera, ben sentito, avanti Marco. Ciao Sandro, ben entrato. Eia, buonasera signori. Buonasera. Io già un po' che vi ascolto, Io già un po' che vi seguo, vi ascolto. Finisco le mie cosettine. Ho detto, ma adesso ecco là, fa spaldare un attimino l'ambiente. Va bene, un po' di movimento. Claudio, prima la salute e poi il resto. No, ma lì tu lo sai dove, cosa faccio, dove sono e tutto sai, no? Di me, quindi. No, non me la sento di rischiare. Se loro mi dicono sì, a posto, tutto ok, va bene, finita chiusa, non è più, come si può dire, attaccabile nel senso di qualche altra infezione, va bene. A parte fatto, sto ancora prendendo l'antibiotico, quindi non ci vado a lavorare a farmi 200 km. Alle 7 mattine vado a prendere l'antibiotico, ma buffoni, assolutamente. Quindi sicuramente non mi fanno rientrare, però se mi avessero detto sì, a posto, sarei più contento, perché a me il mio lavoro piace, quindi vado a lavorare con molta tranquillità, però loro comandano, io devo fare quello che dicono loro. Sono lì in scala della malattia, martedì mattina alle 9 faccio appuntamento con l'ottorino, devo fare la visita di controllo, poi devo andare a Coso, come si dice, dal mio medico, vediamo cosa succede. Se è tutto a posto, io penserò questa settimana di riandarmene al lavoro. E ciccia, va bene, no, tenlo bene, sa, 9:10, radio 5, perfetta, vai Marco. Sì, anche qua. Ma tu preferisci tornare oppure farti un po' un altro po' di vacanza? No, ma io sono abituato a lavorare, poi a me, ti ripeto, il mio lavoro piace. Non sono a fare picco, il mio lavoro che mi piace farlo, quindi lo faccio con molta serietà, con molta, capito? Mi passa la mattinata, io lavoro solo di mattina, è un controsenso, capito? È un controsenso stare a casa a Fagosa. Sei stato a fare picco tutto il giorno, allora insomma avrei detto no, non ha giocato, non ho più voglia di stare a fare picco tutto il giorno, ma grazie a Dio sto in macchina, salgo e scendo, nessuno mi dice niente, mi faccio il mio lavoro con molta tranquillità e mi passa la mattinata, alle 2 sono a casa e c'ho tutta la sera libera, quindi mi piace rientrare, ecco, volevo dire. Ok, dai, va bene. Va bene, ma va bene, calma, comunque, sempre meglio se passi la visita e che ti dicono che tutto ok, meglio così. Che dire, capito, prima la salute, prima c'è la salute e il lavoro. Ce n'è tempo per lavorare, però se non c'è la salute non c'è neanche il lavoro, quindi precedenza assoluta, tutto va bene. E si conferma, assolutamente così, no, ma poi sono in contatto con i miei colleghi, non c'è nessun problema, anche con qualche mio superiore, con molta tranquillità, non sono un assenteista, io non sono uno di quelli che fa malattia, con un raffreddore, con un mal di schiena, mi do una bottiglia, una bacilia e vado lo stesso. Questa è stata una cosa bruttissima e molto pericolosa e soprattutto l'ho vista brutta, perché fino a quando non mi hanno dato l'esito sono rimasto un po' in campana, molto in campana, ti sento dire, perché quando vai a toccare queste cose è sempre un pericolo, però con l'esperienza l'ho fatta e quindi prenderò le dovute precauzioni quando faccio determinate cose, non meno, sono immune. Bene, avanti Marco. Sì, prima sottostando ho sentito qualcuno. Sentito qualcuno, chi è che vuole entrare? Sotto Sandro, Sandro qua, c'è gente da fuori, non lo supera nessuno, non lo so, ma lei sei tu? No, perché non lo supera Sandro, quindi sei 10 dB sotto di Sandro, quindi non riesco a sentirti, capito? Sei 9, abbondante, ma Sandro è oltre 9, 10, quindi io non ti ho sentito, magari Marco che è al segnale più basso di Sandro ha sentito sotto anche a te. Ciao, buonasera, ben ascoltato, avanti. Molto sotto di Sandro. Ciao Valerio, buonasera. No, caro, sono rimasto sconchiffato, ho detto Valerio, no, lei sta con tutto, butta via tutto. Ok, Valerio, comunque buonasera, dai. Va bene, anche io non mi trattengo molto perché adesso dolce al sbarbamento e poi via, padre. Stasera evadiamo, capì? Stasera il gruppo ancora non mi ha chiamato per sentire un po' dove ce la poppiamo. Dottore, stasera facciamo scaldare un po' le suole delle scarpe. A ballare? Bene. Chiappa. Ok, no, ma il segnale tuo vale oltre il 9, quindi da fuori sono quelli che arrivano più forti, tu dal Alghero, Sandro dal Portorese che è lì con Franco di Sorso che c'è un segnalone allucinante. Poi a Sassari chiaramente no, sono tutti segnali oltre 9,20, però segnali grossi, alti, sono da fuori Sassari, sono quello di Sandro e quello di Franco. Gli altri sono tutti sul 9, oltre il 9 mi arriva solo Franco e Sandro. Va bene, dai, sistemati e poi siamo qua. No, io sa, ho bisticciato con le lamette, è già da più di un mese che non tocco lamette, quindi sono diventato barba bianca, c'è la barba, bella colta, ben fatta, però ce l'ho, me la lascio come Antonello, come mio fratello, e boh, ci ho rotto le scarpe nei due giorni, la metto in mano, basta così, adesso barbiere, boh, capito, ci pensa lui, avanti Marco. Oh, barba bianca, sì, la mia è mezza bianca e mezza scura, però a me non piacciono, è troppo rada, capito, sono lontani gli ciuddi uno dall'altro e quindi è meglio non averne, sennò una barba ben fatta, fitta e non è male anche. Attira anche le donne, capito? Ma così è. Allora, Sandro, aiuto, fatela crescere. No, io guardo al massimo due giorni, poi soffro, io la barba massimo due, tre giorni, proprio esagerato, io devo rasarmi, perché sennò sto male, non riesco a tenere, comincia a pulito, comincia a coso, no, ecco, a parte che farmi la barba la sera per me è micidiale, io di solito la barba la faccio sempre la mattina perché la pelle è più riposata, do quanto, la sera farmi la barba mi ritengo a quanto, stamattina con la fresca, una cosa e l'altra, nonno non ce l'ho fatta e quindi adesso mi stasera ho fatto la doccia, poi la barba e poi ne risento. Però purtroppo la devo fare, tutto lì. E niente, infatti stamattina stavo facendo un rifornimento e ho trovato una persona, adesso non ti dico quale persona, poi al secondo momento te lo avrò l'occasione, te lo dirò. Stavo facendo un riferimento tranquillamente, tutto quanto, e mi guardava questa persona, io ho fatto finta di niente, tutto quanto, mi guarda, mi fa, entro dentro, e poi ho pagato, e poi mi sono messo a fare colazione, e mi guardava, e tra me l'ho detto, ma mi vorrà dire qualcosa, e siccome non ero con la Golpeggio, mi fa, il cazzo, senza sapere che c'è una macchina aziendale, beh certo, beh, di nascio come mi dice, certo, e a me, certo, dico, tanto mia, quando avevamo i fiorini che senza le scritte, insomma io inizialmente avevo la mia azienda, la mia ditta di autotrasporti, in questo tanto non mi vedeva, pensava che magari ogni 6 mesi cambi violino, sempre va a Darganova, c'ho i soldi, ho capito, c'ho i soldi, non ho dato molta importanza, ma cosa ne raffutti la gente, ma cosa ne frega la gente, ma se tu non sai quello che faccio, come cosa ne sai tu? Io posso avere neanche quattro macchine, una è la mia e tre sono aziendali. Posso cambiare macchina aziendale anche ogni giorno, cosa te ne frega a te? Cosa ti ne affutti? Vabbè, sa, affutti di. Pensa la Giarudi. Ma chi era quello che guardava? No, non si può dire. Caravaggio, sì, che ha peccato, ma non è peccatore, dice la corona. Vabbè, dai, come. Un indizio. Sono cose molto sempre esistite, esisteranno, ma io per il carattere che ho, diciamo, per come sono io, diciamo, se vedo uno con una macchina diversa, se vedo uno che migliora, anzi buono, che evidentemente, diciamo, perché sta facendo progressi o perché ha fatto sacrifici e vuole migliorare, può che sia così, ma purtroppo queste cose ci sono sempre state, sempre esisteranno. Vabbè, dai, tiriamo avanti, cosa ci possiamo fare? Non ci possiamo fare altro. Caro Marco, come il vecchio detto dice, si dice peccato ma non è peccatore. Ah no, almeno sapere CB radioamatore. Beh, questo ti posso dire, diciamo, una via di mezzo. Ah, va bene, ne sto quando prima, va bene. Ok, riprendete, dai. Ah, quindi c'è problema. L'azienda di Sandro ne ha 50.000 di macchie, quindi le può cambiare anche ogni giorno. Cosa ne ha tutti? Potrebbe far diventare matta la gente. Ah, sa, domani vedrai quella, te ne farà l'altra, poi vedrai te ne farà l'altra, poi te ne farà l'altra. Senza che Alicio dice, ma Alicio cosa fa? La concessionaria? Appunto, dice la concessionaria cosa, per carità. Ma ti devo dire che adesso cos'è? Dunque, mercoledì prossimo ho già l'appuntamento per fare il tagliando. Quindi pensa tu, cos'era? Cos'è? Un mese? No, un mese non c'è un mese. Cosa sarà? 15 giorni, 20 giorni e già ho preso l'appuntamento per il tagliando. Quindi evidentemente mi daranno un'altra vettura, penso. Se ci avete il contratto come il nostro, se gliela devi lasciare ti hanno quella sostitutiva, se invece te la fanno al momento, a me purtroppo Fiorino quando vado in auto A aspetto lì perché non c'è il tempo di darmi la sostitutiva, capito? Perché la leasing plan è fuori, quindi devono fare la richiesta all'azienda e bum bum. Capito? Quindi se anche le vostre sono leasing plan, se gliela devi lasciare ci sarà già la richiesta pronta per darti quella sostitutiva. Se invece non c'è richiesta pronta ti dicono aspetti che gliela facciamo subito e te la danno subito, capito? Oppure come la lasci e tra un paio d'ore è pronta. Però se li devi lasciare per dire un giorno, due giorni, allora ti danno quella sostitutiva. Vuol dire che dal momento in cui tu fai la richiesta, fai la richiesta per il tagliando, loro sono già in contatto con la leasing plan e ti danno la sostitutiva, capito? Per non, perché tu, per come ti muovi, per quello che fai, chiaramente non puoi rimanere fermo. Non lo so come sia la procedura, almeno non so come siano le varie procedure, vabbè, comunque si vedrà, no vabbè, ma per dirti che sono circa 20 giorni, un mese non c'è, e quindi sono già ritagliando, figurati i chilometri che io mi manco tutti i giorni. Beh certo, se ti devi fare tutti i giri del tuo lavoro è chiaro che già giri, sì, invece di me, già giri, poi tu c'hai diverse zone, capito? Il tuo lavoro è fatto sempre così, prima usavi il furgone, adesso usi la vettura per altre cose, è chiaro che non è che ti è cambiato niente, diciamo, dai, sei sempre fuori zona, vai un po' da tutte le parti, nord e sud, centro Sardegna, insomma, so che vai anche fuori Corsica, quindi è chiaro che giri. Dimmi tutto, ditemi poi se si sente il rumore del telefono, perché ce l'ho vicino al microfono. No, io no. No, io ce l'ho vicino al microfono. No, io non sento niente, l'unico che può sentire è Claudio, che sente ce l'ha più vicino. Io ti dico soltanto che a me mi stai arrivando Santiago 5 a picchi di 7, non ti dico altro, evidentemente sei proprio a minima potenza. 5 watt, tondi. Chi è che ha detto minima potenza? Vedi, tu sì. Chi è? Merlo Massi, ma non eri tu, no? Che eri tutto sciattiro. No. Oh, 101 tutto sciattiro. Ciao già, buonasera, ben sentito. C'è anche Sandro che pensa che debba attaccare. Attaccare devi, Sandri. Sì, dai. Tutto acceso, incomincia a farmi la luce, a salvarmi e quant'altro. Dai, signori, vi saluto. Ciao Marco, ciao Gianni, ciao Claudio, dai, alle prossimine. Ciao, buona serata, buona vita. Ah, Natalino era. Natalino, sei troppo alto di watt. Abbassa un po'. Ciao, buona serata, buon tutto, dai, ci aggiorniamo. Ciao anche Gianni, avanti Natalino. Cos'altro? Aspetta che ho sentito come un ronchio adesso. Cos'altro hai toccato? Cos'altro hai fatto? Troppo basso di fatto. Non va bene. Strappa un po', non lo so, e sei più basso di segnale. Hai fatto il cavo dell'antenna, mi sa che sei tornato un gradino indietro. No, è troppo basso di segnale. Non so se c'è la potenza bassa c'è, Natalia. Io quello che ho paura io che ci ha fatto male il cavo e brucia tutto in uscita. Oh Marco, vadi Marco. Ehi, e due, ma tu lo sai benissimo che quell'apparato è molto molto restio alle stazionarie, è molto delicato. Se su quell'apparato ci sono minimo le stazionarie fa per finale. Gliel'ho spiegato, ti dico le condizioni di Natalino, sto usando l'alimentatore da computer, quello con i fili volanti, sto usando l'antenna dentro la stessa stanza attaccata sul frigo, figurati in che condizioni sta uscendo lui, e gliel'ho detto che rischia di bruciare tutto. Mamma mia, oi. Per carità, mamma mia, e magari non ha controllato neanche stazionario. Ma auguroni. Ieri aveva il cavo mezzo interrotto, se n'è accorto perché arrivava a basso e non riceveva più niente. Io gliel'ho detto, in quelle condizioni brucia tutto. Metti tutto al minimo, Natalì, metti il watt al minimo, metti il Michigan a metà, perché se sbagli qualcosa li bruci tutto. Ce l'ha detto anche Sandro. In quegli apparecchi bisogna stare attenti con le stazionarie, poi con le condizioni di lavoro sono terribili. Io sono sicuro che se trovassi un rosmetro buono e controllassi lì sarebbe un casino. Natalì, mi senti a me? Non sono condizionato a uscire, quando se la deve andare fuori, quel pezzo fuori nella finestra, con una spiazza in ferro, non si può tenere sopra il filo, assolutamente, poi con la base magnetica, la calamita stesso, attira tutta la radiofrequenza, ma come si fa? Assolutamente, vai già. Ma se riusci, va bene, ieri poi l'hanno messa a posto bene, vai. Gianni, ha toccato di nuovo tutto. Ieri ha rifatto il cavo, ha toccato di nuovo tutto. E non lo so come dirglielo. Guarda che il cavo ce l'ho io, te lo vedo. Che serve il cavo? Ce l'ho io. Tutto fatto completo. Ancora se sta mai toccare di quella mena. Avanti, bravo. Non ci fanno una ora stasera. Marco! Marco! Marco, sono le 7, sarà preparando a mangiare. No, messaggio per Claudio, stavo pensando a un'altra cosa invece. Stavo un altro argomento, era ciao, dimmi già. Non facciamo niente stanotte. No, no, no, no, non si faceva perché è assente coso. Come si chiama? No, Benito. Eugenio non può venire. E quindi abbiamo rimandato in data da fissare. Aspetta che Claudio sta leggendo il messaggio. Dico, Natalino prima era basso, riceveva basso, c'era il cavo mezzo interrotto, ossidato o quello che è. Ieri l'ha messo a posto, usciva forte, riceveva anche meglio. Oggi ha toccato di nuovo tutto e gli arrivo bassissimo e sta uscendo tutto a strappi. Vedrai che quell'apparecchio lo brucia, te lo dico io, lo brucia. No, ma cazzo, ma cosa ci vuole togliere quel cazzo di antenna da sopra il frigorifero e metterla nella finestra? Come ce l'ho io? Io c'ho quella PMR e quella VHF, tutte e due, sia in U che in V, nella finestra, con una piastra in ferro, e ricevo tutti, non parlo, ma ricevo tutti. Ok, cosa ci fa sopra il frigorifero con la base magnetica? È pericolosissimo. Cosa? Non so cosa dire. Vabbè, non so. Natali, prendi quell'antenna, mettila nella finestra, mettila fuori nella finestra. Non stai uscendo. Bruciato tutto a me, magari non è lui. No, no, mi sembra il suo segnale. Forse sta controllando le stazionarie. Non so. Mettila nella finestra, togliala sopra il frigo. No, non è lui, questo è Santiago 3. Se lui ha bruciato tutto, Va, siamo... Gli ha bruciato tutto, fine, no? Si brucia così una radio, no? Però per me, per fare la prova, non importa niente. Prende la base magnetica e la mette nella finestra, capito? Sì, ma sai cos'è? Hai sentito cosa ha detto Sandro? Sandro, ripetiglielo. Che quella radio c'è un finale che è sensibile alle stazionarie, cioè spara forte, lui ha messo il mic gain a manetta, sai cosa vuol dire mic gain a manetta? Che modulando spara 40 watt, anche se gli metti un watt di portante muta, la potenza al minimo, modulando ne spara 40, capito qual è il problema Claudio? Io ho rovinato un baracchino modulando in quelle condizioni. Io quando avevo l'Albrecht 5008 ho modulato così, con l'antenna dentro casa, e ho rovinato l'apparecchio, che poi Tex l'ha aggiustato, no? Roberto Tex. Vabbè, Natali, io te l'ho detto. Sandro, ripetili quello delle stazionarie, ripetili l'Omega Force come si comporta. Ma è vero appunto, perché l'Omega Force già scatta l'inversione, come ha parlato. Poi se c'è stazionale, qui c'è la pressione, la temperatura. Solo che gliel'ho detto un po' in tutte le salse. Allora meglio attaccare il Lincoln, che ha 4 watt e che esce basso. Finché non mette l'antenna esterna, io dico, guarda, secondo me, prima di mettere l'antenna esterna, quell'apparecchio va bello che è bruciato, vedrai. Sì, ma per fare una prova, cosa costa? Prendere quell'antenna e mettere nell'avanzare della finestra con una massa sotto, un pezzo di lamiera, qualcosa. Cazzo, fai la prova, no? C'è il frigorifero, no, va bene. Cambiamo, dai, argomento. Ho detto sabato vanno tutti a fare la spesa con le mogli, ho detto non entrerà nessuno. Infatti eravamo io e Claudio, mi grosso modo maggior parte della serata. È entrato quarto d'ora Bulldozer, è entrato 10 minuti Sandro, per dire Gianni. Io sono andato senza musica parlando, in due punti. Però quando mi sono spiegato in fretta, sono andato qua da una isola, vicino a casa, e poi l'altro l'ho fatto a portatore da noi, perché le arance faccio di più di altre parti. E rispetto a tutti, e poi il resto non lo faccio più. Io metto. Hai capito, sì? Sì, sì. Cioè, quello non è un baracchino normale, quello è un mostriciattolo, quindi. Qui bisogna mettere il maccherina 3-4, cioè come fosse una radio normale. Poi quando avrà l'antenna sopra potrà mettere tutto a manetta. Stegli dura quel baracchino. Natalino, ci sei vivo? Il cartonato c'è il bindaccio, sì. No, ma c'è perso. Se lo sa quello che deve fare, lui se lo vuole fare. Non è un profano in queste cose. L'antenna l'allunga, per fare il capo come i cristiani. Salla bene PL, l'allunga, con un variotto, mette una piastra nella finestra e la mette nella finestra. E sono sicuro al 100% che va molto meglio di come sta andando adesso. Almeno irradia con l'antenna. Perché tu vuoi irradiare dentro casa. È già un miracolo che sta uscendo. Ehi, ma glielo abbiamo detto tante volte, non lo fa, non lo fa, continua a modulare così. E ascolta. Vabbè dai, vediamo se riuscirà a entrare domani, stanotte. Io glielo dico perché? Perché io ho bruciato un baracchino normale, cioè bruciato, ho rovinato un baracchino normale modulando in quelle condizioni, in quelle stesse condizioni. Poi Tex, Roberto Tex, l'ho dato a lui, era una fesseria, intanto l'avevo danneggiato, modulando in quelle condizioni. No, oggi non mangio perché mangiavo più tardi. Cioè io ho pranzato già da McDonald's, ho mangiato quel poco paninetto piccolo e patatine. Stanotte, per esempio, potremo cenare alle 9:30, capito? Oh Claudio. Cioè oggi abbiamo usato orari più normali, ecco. Magari non alle 9, alle 10, dai, però abbiamo migliorato gli orari. Gianni, ripeto. Io ho pranzato alle 5. No, io alle 2 meno qualcosa. Ma io sono uscito alle 3, voi mi avete fatto un collega che diceva che c'è stata roba in filo, se non la passavo io ho fatto così. E ho pensato a comprare roba. Poi sono andato a casa, e ho preso il taglio, ho portato un cucinare, mangiare, stavo anche però perché fate 5 vabbè, e voi ancora ci, via da te, via da te, tu a casa, sono le 7:10, ma cosa vuoi prendere? Assolutamente no, non sto a casa anche stasera, assolutamente no, non ci vado a lungo, non ci vado a fare nulla, niente di niente, niente di che, diceva mio collega, ultimi voci di vado a vedo, niente di che. Andiamo, sembriamo due disperati, sembriamo. No, poi a me i locali non piacciono, cioè dove c'è musica non mi piace, sono disabituato almeno, dai. Sono disabituato. Bene. Eia, già. Ma già tu non hai amici coetanei. Cioè conosce meno gente, potresti andare con gente magari dell'età, della stessa età, che hanno più voglia di fare, di vivere. Ma io vado, non è che non faccio questo, io se anche le volte vado, no, tua moglie è felice, vai a fare un giro, ha mangiato un gelato. Se avessi una ragazza lo prenderei un gelato, ma sai, la ragazza ti motiva di più. Esco con Gianni, come se fosse la mia fidanzata nel mio piatto in gelato. Ah Gianni, sto dicendo, mi prende la moglie e lei la faccio in giro. No, già ho capito, ho detto, ma io se avessi la pizzina forse sarei più motivato, anche perché ti obbliga a uscire la pizzina, capito? Lavora, ma sei tutti di sabato e domenica a lavorare? Bene, bene, bene, gli altri, anche gli altri giorni? Io mi lavoro. La domenica se devo fare una collega, manda la collega, se no. La collega Bulova? Non lo so già. Io so che si lavora dal lunedì al venerdì, oppure si lavori così e ci vuole riposo. Anzi, dalla lunedì alla domenica, dalla lunedì alla domenica. Vabbè. Mia moglie quando lavorava da lunedì al sabato mattina, perché la giro era aperto sabato mattina, quando poi è andata all'Edra la stessa cosa, da lunedì al sabato mattina, cioè la sabato sera e la domenica sempre libera. Vabbè. Io non so cosa faccia tua moglie dopo lavoro, ma mi va una cosa un po' carica, troppo lunga. Ho capito, beh, se questa non può stare sola, ma ci sta tanti anni così. Però c'è un'amica che le dà un cambio, fa lo tuo, io mi riposo sempre lì, perché diventa, siccome siamo più ragazzini, per quello che lo sto dicendo, diventa pesante. Io ho provato una volta, c'era un collega in malattia, che è rimasto assente per 2 settimane, quindi ho fatto sabato e domenica, lavorai per 2 settimane senza riposo, mi ha un po' pesato, mi ha capito, per quello che lo sto dicendo, anche lui adesso sta facendo la stessa cosa, purtroppo, però so che gli hanno dato uno a sostituirlo proprio per farlo riposare qualche giorno, perché stava già scoppiando. Vabbè, manda le ciance. Deve lavorare. Dottore mia, ha finito in pensione. Si sta godendo la pensione, anche se mi sto rincoglionendo, perché la pensione non vuole più uscire. Prima voleva sempre uscire sabato e domenica, ora non può più andare a lungo. Vabbè, pazienza. Vai Marco. Eia. Poi non so se coincidano gli orari con Gianni e la moglie, perché magari lui lavora la mattina e lei è libera. Poi quando è libero lui, lavora lei, e quindi, capito, un macello. Se d'altronde per il lavoro si fa questo e altro, mi tradisce uno che ha lavorato ben poco, però capisco le esigenze degli altri. Ma sto uscendo. Sì, sto uscendo. Oh, ho bruciato tutto io? Sì, lo rispondono. Ho detto, capisco le esigenze degli altri. No, forse sono distratti, dai, stanno facendo roba lì. Non stanno parlando in verticale. E vai lì, sei sempre tu, sì. Io ho accaldato? No, veramente avevo un po' di freddo e ho messo la giacca. Ho messo una giacca per uscire, perché sono proprio in camicia sottile. Sì, dipende insomma. Bene. Ah, io, Claudio o Gianni, ci siete? Marco, un attimo, sono al telefono con un collega. E Gianni, con chi è al telefono Gianni? Vabbè dai, inutile stare qua a parlare da soli. Che ore sono? Qual è? Sai che ore sono? Ah no, ce l'ho qua. 7:15. Ehi, è presto ancora per il telegiornale, troppo presto, dai. Aspettiamo un altro po'. Sì, bella. Caspita, qua a Sassari c'era un cielo azzurro. e la macchina era calda, era il sole la macchina, sembrava che fosse già estate. Ho dovuto mettere il timami per raffreddare la macchina. C'era Budendi. E vabbè, adesso è anche buio. Anche buio. Buio. E vabbè. Natalino, ci sei? Natalino, mi ascolti? Boh. Sempre facendo e disfacendo il cavo. Grazie a Dio che usciva bene, no, ha toccato tutto di nuovo. No, non lo capisco io, no. No, grande. Natalino, mi senti? Natalino, sei basso. Sei basso, io sono a casa. Hai toccato di nuovo qualcosa sull'antenna, sul cavo, non lo so. Dimmi a che segnale arrivo. Eia, faccio un passaggio lungo. Eccomi qua. Mi devi dire dopo le condizioni tue di lavoro. Mi devi dire se hai i watt bassi, se mi devi dire a quanto hai messo i watt, a quanto hai messo il mic gain, quelle cose lì mi devi dire. Perché lavorare in quelle condizioni è pericoloso. Io in quelle condizioni ho rovinato un baracchino. Siccome quello spara forte, quello si, in poco tempo lo distruggerai. Tu devi mettere watt, 4 watt come ti ho detto io, e il mic gain a 3 o a 4 come fosse un microfono normale. Ci siamo capiti? Vediamo se mi hai orientato l'antenna, vediamo. Oh, come parlare al muro, dai. Valerio, digli qualcosa. Sì, Natalino, ti sento. Mi devi rispondere alla domanda che ti ho fatto. Devi mettere 4 watt al microfono basso, perché se spari forte in quelle condizioni rischi di bruciare l'apparato. Ci siamo? E non risponde. Dice solo, Marco mi senti, Marco mi senti? E poi non risponde, ascolta. Sì, ti ascolto. Tu vedi, non mi sente, ha toccato di nuovo il cavo. E ascolta, io non posso fare altro allora, vale, dai. No, non mi sente. Non mi sente perché chiama, Marco mi senti, Marco mi senti, io gli rispondo mille volte e lui non mi sente. Perché a quanto ho capito ha toccato di nuovo il cavo. Ha trovato ieri il cavo, ha trovato la posizione buona, ha cambiato il cavo, adesso ha toccato di nuovo tutto. Io non so che fare, non posso intervenire io così, dall'esterno. E vabbè, ma già è uomo grande, no? A un certo punto non mi sentiva più ieri perché aveva abbassato il volume, sfiorato la monopola del volume, ascolta. Beh Valerio, chiudo dai, perché poi rischio che mi sale la pressione. Valerio, ci sentiamo dai. Vado a fare qualcosa in casa, dai, a bere un po', a mangiare qualcosa, dai. Sentiamo domani, ciao. Buona serata. Eia, ciao ciao. Sono al telefono io, Aspetta lì che sono al telefono. Natalino, Natalino, senti a Gianfranco. Ma lo vedi com'è? Oh Natalino, se mi ascolti, quell'antenna, mettiti una piastra di ferro e mettila fuori nella finestra, dentro, non può lavorare quell'antenna. Cosa ci vuole a prendere un pezzo di lamiera, una piastra di ferro e appoggiare la base magnetica fuori? Ce l'ho io per il PMR, ascolto tutti. Capito? Non va bene dentro casa, Natalì. Peraltro sta andando anche a strappi, a colpi. Sì, Natalì, il problema è che sei sempre tu che indi. Ieri, Santiago Nove, sentivi tutti. Uscivi bene, oggi hai toccato roba e punte a capo, dai, signori, dai che sto facendo roba qua, era solo per dirglielo, dai Natalì, rimetti l'antenna com'era ieri, anche il cavo, non tocca se, quando tutto va bene, non devi toccare nulla. Allora, scusate l'intromissione, Natalì, siccome tu ieri hai usato il turbo ondulatore, ricordati che dentro casa hai di rientri RF, quello per adesso, finché hai l'antenna dentro casa, lo devi usare con 4 watt grosso modo e con il mic gain basso, come se fosse un microfono normale. Poi quando avrai l'antenna sul tetto lo puoi mettere a tutta potenza, ma ieri avevi il Top Gun Modulator, cioè con i rientri di RF rischia anche di bruciarlo quella radio. Cerca di capire, usalo come un baracchino normale, perché col Top Gun Modulator dà 40 watt e può avere grossi e gravi rientri di RF. Detto questo, dai, fine, sto facendo roba, vai Claudio, vai Gianfranco. E quindi praticamente qual è il problema? Adesso mi senti bene? Stavo dicendo, qual è il problema? Un pezzo di plastica, di lamiera le metti e la metti fuori quell'antenna. Non so cosa avanti a te. Ho capito che sei tutto al minimo, Natalì, però Marco te lo dice per te, perché quella radio è nuova. Se rompe il finale è un casino, capito? Io ti ripeto, c'ho una piastra in ferro spessa, messa nella parte della finestra, e c'è l'antenna a base magnetica per ascoltare il PMR. Ok, e ascolto tutti. Se la metto dentro non sento nessuno, quindi se tu fai quella prova, vai in campagna, vai da qualche parte, vai a Ferro Vecchio, ti procuri una piastra, un pezzo di lamiera, un pezzo di ferro quadrato e lo metti nell'avanzare della finestra, ci appoggi la base magnetica, ricevi e trasmetti meglio di tenerla dentro casa, secondo me. Invece dentro casa stazionale non ne hai. Mi pare strana cosa, ma vabbè. Gianfra, mi prendi. Corso Trinità. Oh, al primo piano, ma l'antenna dentro casa, attaccata al frigo. Ecco perché non ti arriva, capito? Diciamo mercato, dai, più mercato, zona mercato, dai, mercato dell'Ubescio, lì, quella zona lì. E Gianfra, gliel'ho detto in tutti i modi gliel'ho detto. So che lui per adesso non può far altro, quindi lo deve usare come un baracchino normale, perché quello ha 40 watt in AM modulati, 60 in laterale, capito? Perciò lui deve usare con pochi watt e con microfono normale, niente Top Gun Modulator, niente roba forte, capito? Ecco, io lo ascolto, adesso come mo sono appena io lo ascolto, tu mi ascolti Natali, sì. Lascialo così Natali, lascialo così. Così va bene. Sì, Santiago 8, modulato, Santiago 8. Non tocca se nulla, non tocca se nulla, né cavo né antenna, usalo così. Per quanto non sia proprio adeguato l'impianto, lascialo così. Claudio, non ho ragione. Sì, ma io avrei fatto quella prova che ti sto dicendo, perché l'ho fatta io, capito? L'ho fatta io con l'antenna interna sopra il termosifone e non sentivo un accidente. L'ho messa fuori con una piastra, già l'hai vista, non ti sto dicendo male perché l'hai vista tu, davanti alla finestra, con tutto che sono fronte e cortile, parlo, ho parlato per meglio dire in PMR, mi sentivano tutti, ascolto tutti, dentro casa non sentivo nessuno. ma sai cos'è, Claudio? Che dal PMR alla 27 è un'altra gubba, cioè l'antenna messa sul davanzale con il muro ai lati è peggio che non stare dentro, forse. Quello che vuole dire lui, insomma, ci vuole l'antenna esterna, dobbiamo aiutarlo noi o qualcun altro, bisogna risolverlo sto coso. Guarda, non so neanche dove abita. Tu, quando vuoi, ci organizziamo, andiamo, io devo vedere prima che cosa c'è da fare, ok? Quindi ho fatto un impegno, perché quando ero in via Pascoli, non mi avevano ancora dato le chiavi del terrazzo, io mi ero organizzato nel poggiolo, ok? Sia con la 27 che in V in U. Avevo messo tutto attaccato alla ringhiera, fronte giardino sempre, perché lì non ce n'è di poggiolo fronte strada, ma è fronte giardino, quindi chiuso, e uscivo benissimo. In più, che l'ho dato a Sandro Tigre, provo a chiedere se sto facendo balle, avevo un dipolo per la 27, attaccato sotto con due occhielli, sotto praticamente il poggiolo dell'altro, ok, che scendeva nel mio, appoggiato così, sempre dentro Sassari mi sentivano tutti oltre il 9, poi ho montato l'antenna sul tetto, mi sono organizzato così. È preferibile, Natalì, che ti fai un dipolo alla rosa verde e continui a usare quell'antenna a base magnetica. E non rispondi. Ho capito, Natalì, ma non va bene quell'antenna, fatti un dipolo, già le sai fare le cose, cazzo, se ti serve il capo me lo dici, ce l'ho tutto io, ma fatti un dipolo, attacchi un dipolo dentro, sono convinto che esci meglio col dipolo che con quell'antenna. Sì, confermo, non c'è dipolo, proprio no. Questo è il dipolo alla rosa verde, mi ricordo le descrizioni, ci vuole una verticale, dai, palo e verticale, palo e verticale, anche mezz'onda, anche canna a pesca, chissà chi vuoi, anche boomerang, purché sia sul tetto, cappa, dai, quando si potrà si farà. Puro, puro di una caduta da antenna, e allora, addio, no. Comunque, io devo vedere cosa c'è da fare di Natalì, non ti fare a dirti quali sono le mie idee, io devo vedere cosa c'è da fare, perché sembra così complicata questa cosa, tu, una giuvica di Beggio, ti ripeto, quindi, non ho capito, se si riesce a trovare una scala o a fare qualche cosa, io vengo in Chivi, guruga sell'attore, mi chisso della butta, ti porto due buchi in facciata, ti pongo due goci, due staffe di quelle a tassello, col chimico anche dentro, ci metto il palo e piatto l'antenna, ma cosa ci vuole? Ma stiamo scherzando, minchia, che sono una scala da 9 metri, Gianfra, tu riesci a aiutarmi con questa scala da 9 metri, due elementi, non lo so, tre elementi, cosa c'hai tu disponibile? Chiediamo a l'Enel. Chiediamo a mia sorella, capito, che con le corna che c'ha mi metto sopra e arrivo all'ultimo piano. Quindi il problema è la scala, capito? Il problema è la scala e poi vabbè, un'antenna a mezz'onda ce l'ha Tonino di GBC, come la mia, però mezz'onda. Hai capito? La scala è il problema. Caspita, di 9 metri. È tipo quelle scale dell'Enel ci vogliono, però a chi chiederla? Io non ne ho, io ho quelle scale di alluminio a V, ma sono basse. No? Serve arrivare solo a malapena sopra gli armadi, ci vuole, non lo so a chi chiedere io, non lo so, non ho conoscenze. Ehi, nemmeno io, non ne uso imperiale, è brutto. A parte che ci vuole prima, la mia macchina non ha nemmeno le staffe per l'imperiale, l'agila, non ha quelle staffettine laterali, è proprio nuda sopra, capito? E quanto costerò? Più del baracchino costa mio una scala del genere. Natalì, lascia perdere, costa un patrimonio quelle scale professionali, certo 9 metri non puoi mettere una scaletta di Simugia, di Shelby Lady, ci vuole una scala robusta, a quel punto lì con 60 euro in un'ora noleggio una cosa, un'autoscala col cestello, ma stai scherzando, piccolina, si fa lo stesso lavoro, ma bufonesi, non fa così, è troppo pericoloso, è troppo ovviamente sono tanti, ma state scherzando. No, niente autoscala, non ci passa, è un vicoletto stretto. Guarda, è un casino lì, Claudio, solo con la scala, però niente coso perché non ci arriva. Non ci arriva, a che chiedere, porca Giuda, a che chiedere? Poi bisogna avere anche di come trasportarla questa scala. Mannaggia, se no era già tutto bello che fa. Comunque Nathalie, noi ti sentiamo, se tu lasci al minimo, come adesso, la radio anche è buona, la radio è ottima, io ti sento, Claudio ti sente, cioè quelli, anche Gianni credo che ti senta quando sei, capito? Quindi per adesso tu lascia così, poi quando sarà il momento chiederemo a qualcuno, capito? Questo di sotto era dell'Enel, anche se i rapporti, però è dell'Enel. Io una volta mi pare di averli visto qualche scala del genere, se è componibile, se ce l'ha, potrei persino chiedergliela, a costo di affittarla, lo sai. No, no, già sale Claudio, io sono acrofobico. Io non ho problemi, guarda, l'altro giorno mi sono appeso al sistema, quindi non me ne affutti nulla, non temo l'altezza, il riporto sia in sicurezza, capito? Sono appeso al primo gradino, non molto, al primo, per agganciare i ganci per le fasce sopra la gabbia. Quindi non me ne frega niente a me. Infatti c'è sicurezza. La scala Lenel è una scala molto particolare, Marco. O ci sei salito, ti troviamo una mano e lo godo. Innetti, e l'innetto da 10 cm, sappio. No, vabbè, a parte che io con le altezze non vado d'accordo, io ho acrofobia, non è vertigine, è proprio fifa delle altezze, quindi certo non salgo io. Chi c'è, Elio? Elio? Cambio a casa! Elio è salito in punta, l'ho visto io, Elio c'è l'uomo scimmia. Era qua l'uomo scimmia. Figurati tu, perché è molto pericoloso. Ciao Elio, cosa hai detto, l'uomo scimmia? Era proprio qua, se oggi l'uomo scimmia, buonasera a tutti. Abbiamo buttato giù il corpo, perché se lo sto facendo una modifica, sto pensando anche l'assenza del tutto passante. Bene. Lì c'è già l'uomo scimmia, lì c'è l'uomo scimmia. C'è un ragazzo che le fa i lavori, Marco, a Elio. Tu vedrai come sale sopra il traliccio, ma traliccio però, è il nostro sistema come il mio, traliccio. Un gatto sembra, capito? Ma è un ragazzino che pesa 50 kg. Un gatto, Quindi uno di quelli, se ce l'ho presi, andiamo alle ventose, lo facciamo salire sopra la facciata, Elio. Ma fate gli scherzi, io ho un amico che fa questi lavori qua, sono un asco, mi chiamano un asco di boh, loro con le corde salgono comunque, sono due o tre che hanno aperto questa azienda e fanno questi lavori, se volete vi do il numero. Comunque guarda, non sto scherzando, stamattina è salito in 3 secondi, vabbè, lui si dirò sopra la chiusura, quella di sicurezza, però solamente quando è proprio sotto. E stamattina ha fatto 15 metri sul traliccio, in 3 secondi. Perché non c'ero io il giorno che mi hai salito a togliere cosa della quella di 6 metri. Non c'ero io, abbiamo sceso quella di 6 metri, non l'ho visto come lavoro, eccezionale quella ragazza. È pratico, ci vuole praticità per fare queste cose, non è facile, ma da Natalì no, non si può fare, non ci sono corde che tenga, lui ci vuole la scala perché è facciata, non c'è niente, bisogna arrivare al tetto dalla facciata, capito? Non ci sono altre soluzioni, solo così, e quindi ci vuole una scala, non lo permette. Natalì, se hai un po' di pazienza, lascia stare tutto così, io appena rientro al lavoro provo a chiedere a vedere se abbiamo qualcosa del genere. Magari che c'è un camioncino e si fa quello che si deve fare. Altro non ti posso promettere perché l'unico che ci poteva aiutare era quello che ti ho detto. Però se lui non ne ha più, o non fa più quel lavoro, è un casino. Non so cosa dirti, Gianfranco non ne ha. Io se l'avessi avuta te l'avrei portata adesso, nel buio, senza imperiarmi. L'avrei messa una cappotta alla macchina, una fascia legata. L'avrei scesa, ma non ne ho una trina, non ne ho mai usato di stare così, capito? Già capito, vabbè, comunque adesso arriva abbastanza bene, però appunto senza Top Gun moduletto, senza il doppio modulatore, perché sennò spinge troppo e può avere rientri. Per il resto per adesso va bene. io c'ho una mini boomerang, io ho una mini boomerang della LEM, se si riuscisse a metterla anche fuori dalla finestra, mi allontanarla il più possibile dal muro, non lo so, guarda, non so cosa pensare, come l'attacchi però al muro, ci vorrà sempre un tubo, un supporto, anche quello andrebbe bene. Certo, la mini boomerang non è un granché, ti tiene massimo 40 canali, mi. Massimo 40 canali. Però almeno sarebbe fuori dalla, fuori dalla casa, capito? Fuori dalla camera. Ehi, c'ha lo stub di taratura sopra, c'ha la... quel ferrettino che va su e giù per la taratura, lo stub di taratura. Sta mettendo ansia questa situazione, Claudio, è possibile che appunto non si trovi soluzione, boh, sembra che debba venire l'elicottero a piazzare il tubo. Eia, come ha detto Elio ha detto cambia casa, la cosa migliore, in un bel palazzo con un terrazzo sopra, e magari si potesse. Oi oi. Aiuto, riprendete, forza, forza, torna come prima. Claudio risponde, io non risponde, Gianfranco è occupato. Io sono qua, sto facendo una cosa, dai, Gianfranco. Eia, Claudio, ma io che chiudiamo così, dai, a mangiare si è andato. Non vado mai io senza salutare, senza avvisare. Sto preparando 5 minuti, poi vado, dai. Va bene, va bene. E allora gli ho più, tutto a posto? Cappa. Sento TV anche con l'antenna. Sì, che fai la palazzina, La di sui bar. Già te sono di sui bar Ugani, alle tormenti. Vabbè, lì c'è la vita, poi pazienza. Anche quella ci mette a posto, dai. Fai il tempo buono, adesso dedicati altro. Poi una domenica mattina salgo. Ne la faremo e vediamo cosa ce la fa. Capito? Gappa gappa. Oh, Beta 1, Alfa 1, Delta 6, Alfa 6, Alfa 2. Gianfranco, no, ma come preso il tuo nome attivo al 27? Io ti ho sempre chiamato Gianfranco. Sì, zio Giulio Baracò, di zia Jeffy, perché era mezzo balbuziente, invece di Abbi, no, non aggiungimi nulla. In DMR. Kappa, e già quando ci ho visto stamattina, che lo sai, poi ho ricevuto soltanto per questa gente. Ma stamattina, ieri, forse dicevo. Ieri, poi ci ho visto spostando. No, questa mattina perché lì c'è la scimmia, stava buttando giù la cosa, e stava facendo delle modifiche. E tu non hai detto che voleva di banda, cosa mi avevi detto? E che antenna devi mettere? È un'altra antenna? Sì, ma come faccio? Io ho i due gemellini, ho duplex, unica antenna e sono attaccati lì. Come faccio? Un'altra antenna come mettere? Vabbè, parliamone in privato, scendiamo per telefono. Vabbè, già ne parliamo per telefono, quindi tu ti chiamo domani. No, se non facciamo un mercatino qua. Va bene, che ora vorrei mangiare le 9, sì, dai ragazzi, tenete duro, io vado a cenare. Ciao Gianfranco, ci sentiamo al telefono, ciao Elio, ciao Natalino, ciao Marco, eccetera eccetera, chiunque sia qua in ascolto, vai. Passo in quarantina, notte a tutti. Natalino, un po' di pazienza, fammi rientrare al lavoro e provo a chiedere lì in officina se abbiamo qualche scala, almeno 3 elementi da 3 metri. 3 elementi da 3 metri, capito? Noi con le scale li usiamo per scendere nei pozzi, nelle vasche che sono abbastanza alte, quindi dovremmo avere qualcosa ma di serio da portare col camioncino sicuramente. Provo a chiedere, abbi un po' di pazienza, la prossima settimana ti so dire qualcosa. Ciao a tutti, notte, bye bye. Ciao Claudio, buonanotte, buon tutto, dai. Ciao Claudio, buona serata, ma non è l'unica, ma si vede che c'è le prossime. Procuratevi le scale! Ciao Emilio, buona domenica anche a te, dai, saluta mia vita, ciao a tutti. Ciao. Vai Gianfranco. E capito già strada, cosa che non mi piace, non fanno una cosa, non mi piace. No, no, non prendo gusto. Claudio, noi. Tanto lo so, mica poi a Natale noi mettiamo palo, antenna, tutto, poi appena viene il primo vento ne sfaccia tutto. Con Antonino abbiamo fatto sempre dei grandi lavori, e Antonino è un professionista in questo, quindi non ti preoccupare. Se ci metto le mani io sei certo che non mi ricade niente, su questo non ci piove, tranquillo, ok? Perché se parliamo di sistemi, direttive eccetera, io non ne ho mai fatto e quindi è chiaro che ci vuole l'aiuto di chi è più portato a fare certe cose. Ma la mantova io l'ho sempre piazzata da solo, a 40 metri di altezza, mi sono sempre mangiato da solo, le antenne VHF, le antenne verticali me le ho sempre fatte da solo, non ho mai chiesto aiuto a nessuno, capito? Quindi non ti preoccupare, ma mi interessa a vedere cosa c'è da fare, poi vedrai che già ci organizziamo, non ti preoccupare, già ci organizziamo, dai, notte a tutti, come mai non ti piace questa radio, Elio, cos'è, brutta esteticamente? No, no, sto pensando a te, ma 20 anni fa però le facevi queste cose. No, non è che è brutta, no, è una bella radio, perché no, non mi piace perché ha il spleen nel microfono, capito? E io invece nella carcassa non c'è niente, nella carcassa, chiamano nella radio, dai. E tutto il microfonino, cioè non... A me piace il microfono di cui mi attacco e basta. Gianfra, non ne parliamo neanche, la stessa cosa ti rispondo, a me piace la radio con gli spegni della radio. Con il microfono non mi piace neanche la tastiera, guarda, alla fin fine lì. Magari ti interessa a te, Claudio, a me no, perché, ripeto, in questo va bene in macchina va benissimo, perché c'è tutto lì, c'è tutto di scrivere, sei che guarda la radio, ma qua, per esempio, la guarda, non mi piace. No, no, ma infatti non piace neanche a me, te lo sto dicendo, per quanto ho fatto la domanda. Quindi Gianfra, vai come deve andare la cosa, pensavo fosse un VHF normale come il veicolare che ho io con display di microfono normale, capito? Niente di che. Ma così non so manco dove metterlo io qua, dove me lo metto. Posso metterlo al posto del veicolare che ho io, di quello nuovo, ma no, col microfono lo vedo, lo prendo. No, Gianfra. Hai fatto bene a dirmelo, così non ti faccio perdere tempo. Se dovesse capitarti un BMR veicolare come tutti gli altri, allora fammelo sapere, così comandato dal microfono mi interessa già fare. Ma Claudio è obsoleto! Non sto facendo un problema di prezzo, Gianfra, io non so quanto costa, non ti ho chiesto, non mi interessa. Mi piace e vengo e me la compro, però se è comandata dal microfono, che c'è tutto nel microfono, non mi biasi, capito? È un sistema che a me non piace. Guarda, io nell'altra radio c'avevo il microfono anche di con tutta la tastiera, di TMF, gli ho messo un microfono vecchio della radio, della stessa radio, però non lo vedo prima. Non mi piacciono comandati dal radio, manco dame app, niente, non mi piacciono i microfoni. Microfoni che fanno tutto, anche perché io in macchina non li uso, tenerla a casa così con questo microfono sempre in misurone perché devo comandare tutto da lì, no, non mi piace già far così, se no sarei venuto adesso a prenderla, va. Tranquillo, non mi interessa né quanto costa né quanto la stai vendendo, te l'ho detto che BMR veicolare va bene perché portate non mi biasi, e quindi però deve essere come dico io, deve essere un veicolare che deve avere il display nella radio, nel microfono mi piace. Sì, assolutamente Gianfra, ci possiamo vedere, la posso anche provare, non c'è problema, però ti ripeto, comandata, io sono molto allergico a queste cose, io ti immagino che ho cambiato il 1200 perché non mi piaceva il funzionamento dell'alzatore di spettro con lo smitter, quindi l'ho cambiato subito, ho tenuto 3-4 mesi l'ho cambiato, ho preso quello come dico io, quello strumento analogico, l'alzatore di spettro che funziona come dico io, non così, perdendoci anche dei soldi perché purtroppo una volta lo comprano anche tirano, non me ne frega niente. Per dirti, no? Radio io digitale, con lo strumento digitale non ci vado d'accordo. Non vado d'accordo con i microfoni che comandano tutto da lì e bim bum bam. Quindi comunque dai. Ci aggiorniamo e ne parliamo, adesso c'ho fame, se no mi si impasta la lingua e non connetto più. Ciao a tutti, buonanotte e domani. Ti chiamo domani al telefono, Gianfranco, ne parliamo. Ciao Elio, Gianfranco, Marco, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, tranne qua, il miserabile farabutti. Ciao. Ciao Claudio, ciao. Ehi Gianfranco, Claudio è tradizionalista, lui vuole radio, tutte che assomigli al Kenwood. Ma sai che volevo rispondere a Claudio? La mia risposta era, e con questo ho detto tutto. E lo sai, amico mio, e lo sai, che Dio Claudio non smentisce, è rimasto sempre fatti, non parole. E un altro diceva, vabbè, lasciamo aperto. Ciao, buonasera, buonasera, saluta a casa. No, non ho capito già fa. Cosa? Ma qua l'aspetto. Ti devo fare cantante del cane. Che la collego. No, non lo sto usando perché. No, a parte che c'è il tolicio giù. Quindi non so neanche se sentirò qualcosa, anche sotto prima. E finché c'è il tolicio giù, no. Perché l'ho limitato di. Vabbè dai, vi saluto che mi ha chiamato la signora che è pronto. Signori, buonasera, io sono della dicendo. Ciao a tutti da Piuma, ciao. Sono qua a Fra, ciao Marco, ciao Lazzarino, ciao a tutti, ciao. Sono qua domani, ciao. Non alle 7 del mattino, quando vuoi. No dai, sono le 9:30, le 10. Ciao domani, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao Nathalie, ci sentiamo domani. Mi raccomando, vai piano con quello per adesso, ok? Poi appena posso ti porto quell'altro apparato. Sì, buonanotte signora, buonanotte anche a lei.